A tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio, bentornati da Massimo Callegari con Fabio Cantadori, Rudy in regia, Marco Lombardo in redazione per vivere questa penultima settimana prima dell'inizio del campionato, ma è già una settimana di calcio vero, verissimo, perché oggi inizia nella sostanza la Champions League con l'andata del playoff, l'ultimo turno prima del tabellone principale. Ci sono partite interessanti nella giornata di oggi e in quella di domani. Apre alle 18.30 lo Zenit San Pietroburgo di Luciano Spalletti, imbattuto nel campionato russo contro i francesi dell'Auxerre, 2 punti nelle prime 2 giornate in Ligue 1, una delle squadre più sorprendenti della scorsa stagione nel torneo francese. E poi questa sera in campo, tra le altre, il Tottenham in Svizzera contro lo Young Boys e la Dinamo Kiev contro l'Ajax. Poi domani la Sampdoria che torna in Champions League, o almeno alle porte della Champions League, 18 anni dopo il KO di Wembley ai supplementari con la punizione beffarda di Rambo Kuman contro il Barcellona di Johan Cruyff. È però il giorno di Turbo Mario Balotelli, chissà se diventerà Mad Mario, in attesa di parlare di Sampdoria e di altro anche con voi, naturalmente all'800 24 00 24 per le telefonate, con gli sms al 349 238 6666. Vi aspetto, dicevo, domani Verde Sampdoria, ma oggi subito il giorno di Turbo Mario Balotelli. Presentazione a Manchester, dove c'è per noi, nella sede dei Citizens del Manchester City, il nostro corrispondente amico da Londra e dall'Inghilterra, Lorenzo Amuso. Bentornato. Lorenzo, ci sei? Buon pomeriggio, sì, siamo in attesa di Mario Balotelli. Sì, sì, vi sento io, mi sentite? Sì, perfetto, sei in attesa di Mario Balotelli, certo, sì. Sì, no, siamo a Carrington, il centro sportivo del Manchester City. Nel giro di qualche minuto ci hanno detto appena adesso che in un paio di minuti arriverà Mario Balotelli per la sua prima conferenza stampa di fronte alla stampa inglese. In realtà c'è anche una nutrita presenza di giornalisti italiani. È appena uscito dal centro sportivo e sta arrivando nel media center dove si svolgerà la conferenza stampa. Ovviamente siamo molto interessati di scoprire le sue prime parole, se conosce già qualche parola di inglese. In realtà pare che un po' l'inglese lo mastichi Mario, e niente, ripeto, fra un minuto sapremo qualcosa di più sulle motivazioni, le ragioni che hanno spinto Mario Balotelli a trasferirsi in Premier League, a riunirsi con Roberto Mancini per questa nuova avventura. Ricordiamo, ha appena firmato un contratto di 5 anni con Manchester City, 28 milioni di euro la cifra che il City ha pagato all'Inter, un contratto di 5 anni da 3 milioni e mezzo a stagione per Super Mario. Mario è appena arrivato e ci sentiamo più tardi per le Perfetto. Prime parole di Mario. Perfetto, grazie Lorenzo Amuso. Tra poco sentiremo, anche grazie al contributo suo, naturalmente da Manchester, le dichiarazioni di Mario Balotelli. Nel frattempo, prima di introdurvi a questo appuntamento, prima di sapere anche quali sono le vostre valutazioni su questo, l'800 24 00 24, se è la scelta giusta da parte di Balotelli, se è la scelta giusta da parte dell'Inter. Probabilmente in questo momento per Balotelli dal punto di vista economico è il migliore scenario possibile, ma lo è anche dal punto di vista tecnico? Forse no, perché va in una squadra che non giocherà la Champions League, va in una squadra in cui, è vero, Roberto Mancini gli ha garantito di dargli un ruolo da protagonista e dunque da titolare, quello che all'Inter ma in nessun altro club al mondo gli avrebbero potuto garantire, perché nessun giocatore al mondo di questo calibro, senza aver ancora avuto un ruolo decisivo nella conquista dei trofei per la sua squadra precedente, quindi l'Inter, può garantirgli. Vedremo insomma se questa è la scelta giusta e se Balotelli avrà la capacità e la personalità di inserirsi in Inghilterra e al Manchester, in una città molto difficile, molto diversa da Londra, con la rapidità che serve. Già giovedì c'è il preliminare di Europa League a Timisoara e poi lunedì c'è il debutto con il Liverpool in Premier League proprio al City of Manchester. Balotelli in questo momento lo sto vedendo su Sky Sport 24, tra poco lo sentiremo, è già sorridente, pronto per la conferenza stampa, risponderà chissà in italiano e chissà in inglese, e tra poco vi faremo sentire anche le sue prime valutazioni. Lo vedo per ora sorridente, un po' così a monosillabi, pronto per dare le sue risposte. Nel frattempo, in attesa delle sue prime parole, sentiamo cosa aveva detto Benitez nel momento in cui gli era stato chiesto qualcosa su Balotelli, che però ha già cominciato a parlare. Sentiamo lui ora in diretta. C'erano tante squadre che mi volevano quest'estate, però io anche come procuratore ho sempre detto io voglio andare a Manchester per il mister, e secondo me è l'ambiente giusto per poter crescere, e sono venuto qua e adesso che sono qua sono contento. I'm happy to be here. Queste sono le parole di Balotelli. Ora naturalmente c'è la traduzione per i colleghi inglesi. Balotelli ha detto: sono qui a Manchester con il mister, con Mancini, quello che lo ha lanciato in Italia, però c'è anche da dire, e anche su questo vorrei sollecitarvi, se Balotelli è migliorato poi nel giro di questi 2-3 anni, cioè è un giocatore che ha cambiato il suo comportamento, il suo atteggiamento, ed è migliorato complessivamente rispetto a quando debuttò con Mancini, rispetto a quando Mancini ad esempio fu costretto a sostituirlo in una gara a Torino decisiva per le ambizioni di scudetto dell'Inter, quando la Roma si era rifatta sotto e aveva praticamente rimontato, l'Inter continuava a lottare e Balotelli stava per rischiare l'espulsione, Mancini lo cambiò, come poi non ha fatto Mourinho in realtà in maniera così evidente ed esplicita, ma i contrasti lì sono stati ben più duri e aspri. Ancora Balotelli. I was sorry to leave Italy because I have my family there, I have my friends, but not professionally. Professionally I'm very very happy to be here in my... Questo è il traduttore che diceva: sono stato naturalmente infelice di lasciare l'Italia perché lì c'è la mia famiglia, lì sono cresciuto, però dal punto di vista professionale sono contento. I'm not bad boy. Non sono un ragazzaccio. Sì, in Italia dicono così. Io sono un ragazzo, diciamo, particolare. Non sono né cattivo né troppo buono. Sono un ragazzo normale, molto vivace, basta. Ma non sono un bad boy. Say that's what they say in Italy, but I'm just... Non sono un mad boy, un bad boy. Queste le considerazioni, le dichiarazioni di Balotelli Ancelotti, che lo ha promosso e lanciato sul mercato in maniera sul mercato inglese in maniera molto decisa, anche in un'intervista oggi al Corriere dello Sport. Dice: è perfetto per il calcio inglese tecnicamente, fisicamente, e sicuramente si adatterà molto rapidamente. Ancora Balotelli. Non esiste il razzismo. In Italia è successo due o tre volte, sono cose che non devono succedere e spero che non succedano mai neanche qua, ma non penso. As far as I know, there is no... Naturalmente richieste, domande anche sulle sue aspettative sul ricevimento, sull'accoglienza che avrà da parte dei tifosi inglesi delle altre squadre. È vero che non c'è razzismo in Inghilterra, però è vero che giocatori e personaggi molto eccentrici, penso a Cristiano Ronaldo l'ultimo, ma anche tanti altri, non sono risparmiati assolutamente quando vanno in giro negli stadi delle squadre rivali. Ecco Balotelli. C'era il mister, io non penso che sarei venuto qua perché il mister mi ha lanciato nel calcio, mi ha dato sempre fiducia e io devo ricambiarlo adesso. La domanda era: quanto è importante Mancini per te? E Balotelli ha risposto: se non ci fosse stato Roberto Mancini non sarei venuto. Però dal punto di vista tecnico, ribadisco, ci sono comunque dei dubbi che devono essere fugati per l'ambientamento di Balotelli in questa squadra e per la sua crescita professionale. Cioè, questa è una scelta che lo porta in un club che gli dà uno stipendio altissimo per un giocatore della sua età, che comunque non era titolare nel club di provenienza, 3,5 milioni all'anno per diversi anni, questo è il contratto. Ma è anche una squadra che non gioca in Champions League, una squadra che deve essere poi capace di consolidare il suo valore in questi anni, dopo i grandi acquisti dell'estate, con una proprietà che non è tipicamente inglese, ma questo non è un problema solo del Manchester City. È facile giocare qui che in Italia, dove c'è molta più tattica in Italia. Io spero di trovarmi bene. I think I will. Penso che mi troverò bene, ha detto Balotelli alla domanda come ti ambienterai, come ti troverai in Premier League. È più facile giocare qui che in Italia, secondo Balotelli. Ora sta parlando Roberto Mancini a Manchester nella conferenza di presentazione di Mario Balotelli. Perché è giovane, perché ha una buona tecnica, perché è forte, è veloce, ha tutte le qualità per diventare uno dei migliori giocatori nel mondo nel futuro. Quindi non dovrebbe essere un problema, ma tutti noi quando eravamo giovani eravamo dei ragazzi un po' problematici, tutti quelli che sono qui presenti, perché è normale, quando sei giovane a volte puoi avere un comportamento negativo, a volte, però poi si può cambiare. Per me è un bravo ragazzo, un ragazzo normale, è importante che sia un buon giocatore. Non penso che con 20 angeli potremmo vincere la Premier League. Pensi che questa mossa sia buona, possa portare un nuovo equilibrio? I think that's can grow like a player. Ma grow io penso che lui possa crescere come uomo e come giocatore in questa in questo campionato, perché ha cambiato squadra, ha cambiato paese. Quindi per lui sicuramente sarà molto importante. Però quale potrebbe essere il vantaggio per gli altri giocatori di avere Mario qua con lui? È giovane, ha 20 anni, è molto giovane. He can improve a lot of in Premier League. Può migliorare molto anche nella Premier League. To improve, we can lui può aiutare noi e noi possiamo aiutare lui a crescere, sarà reciproca la cosa. Questo era Roberto Mancini che rafforzava le sue convinzioni di poter far crescere Turbo Mario Balotelli come calciatore, ma anche come ragazzo, come uomo. Nella sua avventura inglese Roberto Mancini è in Inghilterra, a Manchester ora. Domani invece è a Brema, la Sampdoria, che è già partita in mattinata per la destinazione tedesca, gioca l'andata del playoff di Champions League, si affaccia alla massima competizione continentale 18 anni dopo, un appuntamento che Roberto Mancini sicuramente ricorderà a vita per le emozioni e anche per la grande delusione. La Sampdoria perse quella finale con la punizione di Rambo Kuman nei tempi supplementari. Con Roberto Mancini c'erano Gianluca Vialli e tanti altri campioni di quella indimenticabile Samp, e c'era anche Gianluca Pagliuca che è con noi. Bentornato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Oggi sui giornali hai fatto il pieno, tutti ti hanno chiamato ieri per sapere quali sono le tue emozioni, e tu dici addirittura 40% Werder, 60% Sampdoria. Ma sì, perché secondo me insomma il Werder Brema è una squadra battibile, è una squadra che fa sicuramente gioca, fa giocare, gioca bene e fa anche giocare, e quindi la Sampdoria secondo me ha possibilità, soprattutto là, di fare gol, che insomma come sapete voi, fare gol in trasferta è importantissimo. Hanno qualità i giocatori, secondo me, che possono fare male a questo Werder Brema. Cassano è cresciuto molto, Pazzini deve subito rilanciarsi agli occhi di Prandelli, anche se lì probabilmente la questione non è solo tecnica, dopo il rapporto che hanno avuto a Firenze e la mancata convocazione del centravanti nella prima in nazionale del suo ex allenatore. C'è altro oltre a questi due giocatori su cui deve puntare la Sampdoria? È una squadra che ti aspetti diversa nell'interpretazione del gioco rispetto a quella di Del Neri? Tu hai detto di Carlo Del Neri il cambiamento principale è tra due allenatori, due uomini che hanno un modo diverso anche di rapportarsi alla squadra. Sì, hanno due modi diversi, però come ho detto avevo detto anche di che ogni un allenatore è intelligente da anche cercare di non stravolgere tutti i meccanismi che l'anno prima avevano funzionato benissimo, no? Quindi anche se sono due allenatori probabilmente diversi come caratteristiche, però Di Carlo avrà fatto tesoro da tutte le belle cose che ha fatto Del Neri l'anno passato. Ecco, io penso che la squadra sia la stessa, a parte il portiere, quindi potrà veramente fare delle buonissime cose. Mancini aveva sponsorizzato spesso Antonio Cassano quando era all'Inter. Ci sono stati momenti in cui i due sono stati molto vicini. Ora Cassano ha 28 anni, Mancini ha appena detto, riferendosi a Balotelli nella conferenza stampa di presentazione dell'ex interista a Manchester, a 20 anni da giovani tutti eravamo un po' sui generis e poi siamo maturati. Hai visto qualcosa di simile nella maturazione del Mancini giocatore e del Cassano giocatore, o è sempre un paragone un po' giornalistico e non tanto realistico nella sostanza, secondo te? Sono un po' giornalistico, perché ognuno ha le proprie caratteristiche. Sicuramente Cassano sono giocatori che hanno avuto delle caratteristiche eccezionali, e in un certo senso si possono anche, può essere anche una similitudine, però ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Non fare paragoni, io penso che anche Cassano non abbia piacere, no? Tutte le volte che viene considerato Mancini, la Sampdoria degli anni, io penso che la Sampdoria probabilmente non vincerà mai più uno scudetto, ecco. Quindi ecco, io bisogna cercare di non vivere nei ricordi e nelle cose che furono, ecco. Ormai la cosa più importante è che la Sampdoria adesso ha un'ottima squadra che sta facendo i preliminari di Champions, e Mancini e Vialli non ci sono più, e c'è Pazzini e Cassano che sono due giocatori ottimi per quella categoria. C'è scritto anche il presidente del Sampdoria Club Alessandria, per dire che tutto il popolo blucerchiato è vicino alla squadra, di onorare quella maglia, grande emozione. Tu hai parlato in maniera molto diretta anche di quell'episodio che avrai rivisitato e rivisto non so quante volte nella tua vita, nelle tue notti. Hai detto: ho pianto un'ora dopo quella partita, Bosco non riuscì a dirci nulla perché vedeva che eravamo completamente distrutti. Quella punizione con tuoi compagni che escono dalla barriera con il pallone che arriva a un nulla dal palo, quante volte ci hai pensato? Ci ho pensato penso ancora adesso, però mai è successo. È ovvio che ti viene nervoso, perché fino a quel momento io e Zubizarreta probabilmente eravamo stati i migliori in campo. Io ho fatto veramente una partita molto bella e stavo già pregustando i calci di rigore, ecco, e quindi eravamo tutti in un certo senso già concentrati per i calci di rigore. Poi è venuta questa punizione, secondo me molto pignola da parte dell'arbitro, ha fischiato questa punizione e purtroppo Moreno, Mannini e Pari si sono aperti, sono andati incontro alla palla in due, e la palla è passata proprio lì dove non doveva passare. Io purtroppo l'ho vista in ritardo e poi è andata dentro. Ma tu e Luca Vialli avete parlato qualche volta di quel momento, del suo pallonetto? Non avete mai parlato? Non ho parlato, anche perché è come farsi dell'ulteriore male. Anche adesso parlo di questa cosa, ma mi fa un dolore atroce, perché un conto perdi una finale del campionato del mondo, sì, è un dolore atroce, però perdi una finale di Champions con la Sampdoria, una squadra che non aveva mai vinto uno scudetto, l'aveva vinto l'anno prima, al primo tentativo eravamo arrivati in finale, e quasi vincerla e perderla per un soffio è stata veramente atroce. Le ultime cose ti voglio chiedere, la prima tutti ci auguriamo naturalmente per la Sampdoria, per quello che vale, anche per l'entusiasmo che trasmette a tutto il calcio italiano e anche per il ranking della UEFA, che possa accedere alla Champions League, anche perché ne metterebbe da parte una avversaria tedesca in questo preliminare, appunto il Werder Bremen. Però negli ultimi anni le squadre che sono arrivate in Champions senza essere abituate al doppio impegno, la Fiorentina l'anno scorso e anche altre, l'Udinese in passato, hanno sofferto molto nel corso della stagione l'impegno europeo e quello in Serie A. Secondo te la Sampdoria ha una rosa così completa per competere su entrambi i fronti e soprattutto per mantenersi su buoni livelli in campionato? Ma secondo me è sicuramente una rosa che può fare la buona figura, non sicuramente vincerla, però una buona figura. Però ecco, non avendo una rosa tanto ampia, dopo rischi di fare come la Fiorentina l'anno scorso, che dopo crolli psicologicamente nel giro di ritorno del campionato. Quindi la Champions League è una cosa bellissima, affascinante, però potresti pagarla dopo la primavera, ecco. Infatti. L'ultima cosa che ti voglio chiedere, tu hai giocato in Italia, insomma hai vissuto ad altissimi livelli nel nostro campionato, in un calcio diverso anche dal punto di vista proprio del libero mercato rispetto a quello attuale. Se tu avessi avuto modo di parlare un minuto o due con Mario Balotelli, gli avresti consigliato di prendere questa strada, cioè di andare in Inghilterra a prendere molti soldi al Manchester City, in una squadra e in un club che però si deve affermare e che non gioca la Champions almeno per quest'anno? È una scelta che tu gli avresti consigliato? Sai, ognuno c'ha la sua testa, ognuno ha il suo carattere. Io penso che Balotelli, se stava all'Inter, lo spazio se lo ritrovava. Probabilmente lui aveva un po' rotto il rapporto con i compagni, con l'ambiente, con la tifoseria, quindi in più là gli hanno fatto un contratto molto importante che probabilmente a Milano non avrebbe preso quei soldi, ora ha preso questa decisione, ecco. Tu però, hai mai avuto un compagno come lui? Io non lo so, io Balotelli non lo conosco, perché lo conosco solo per sentire dire, e è sicuramente molto esuberante, ecco, però insomma, ne ho avuto dei compagni molto esuberanti anch'io, i miei compagni di squadra, anch'io quando ero giovane, quando ero ragazzo ero molto più esuberante di adesso, poi con la vecchiaia però dopo ti tranquillizzi. E come Cassano lo era, dicevano che non poteva mai cambiare, invece è cambiato, quindi probabilmente anche lui farà i suoi errori, poi probabilmente farà tesoro di questi suoi errori che farà, però non è andato a star male, è andato a Manchester City, una bellissima piazza, una società che è ricca, la società più ricca del mondo, c'è un allenatore che lo stima, che lo ha lanciato nel grande calcio, penso che anche lui abbia fatto i suoi conti. Bene, grazie e in bocca al lupo per domani sera per Verde Sampdoria, no? Sì, in bocca al lupo alla Sampdoria. Grazie, a presto. Grazie a Gianluca Pagliuca che ci ha ricordato le sue fantastiche esperienze alla Sampdoria e anche purtroppo quella disgraziata finale con il Barcellona, giocata però con una qualità complessiva anche di partite di finale di altissimo livello, l'ultima finale, lo ha ricordato anche lui, di quella che una volta si chiamava Coppa dei Campioni, poi diventò Champions League, cambiò la formula e si modificò insomma la struttura del torneo. Mancini e Balotelli ancora stanno sorridendo in maniera piuttosto serena a Manchester. Noi abbiamo la borsa in diretta, i mercati, poi ancora SMS al 349 238 6666 e le vostre telefonate all'800 24 00 24. Procede la conferenza stampa di presentazione di Mario Balotelli con Roberto Mancini al suo fianco. Balotelli, come sempre, sembra capace di farsi scivolare addosso ogni emozione, non di non viverla, però di gestire ogni momento con una serenità a volte disarmante per la sua età. Sentiamolo. Io non sono stato costretto ad andare via, sono io che sono voluto andare via. Quindi poi nel campionato di giovani ce ne sono, anche forti, anche nell'Inter ce ne sono adesso. Bene, all'estero è più facile che un giovane sia giochi regolarmente in una squadra anche di prima fascia. In Italia invece magari fanno più fatica. Insomma, Balotelli ha finalmente smontato tutta questa teoria che è stata costruita in maniera mirabile dal suo punto di vista, dal suo agente Minoraiola, che ha accusato prima Mourinho, poi tutti gli altri in serie quando Mourinho se n'era andato, per fare in modo che il suo assistito non rimanesse all'Inter, e dunque anche Raiola dal suo punto di vista sicuramente ci ha guadagnato, perché sui trasferimenti gli agenti riescono a guadagnare in maniera discreta, a volte anche notevole. Ancora Balotelli. Sì. Abbiamo perso la sua risposta in questo caso, mentre Mancini in precedenza ha parlato anche di Milner, che è un giocatore molto atteso dal Manchester, giocatore dell'Aston Villa che ha movimentato il mercato in Premier, ma entro giovedì si decide, perché l'Aston Villa gioca il suo preliminare con Rapid Vienna in Europa League e il Manchester City gioca in Romania. Se Milner dovesse disputare quella partita con i Villans, non potrebbe più giocare in Europa con il City. Balotelli. È stato un gran presidente, ho sempre avuto un buonissimo rapporto con lui, mi ha trattato veramente bene, quindi in colpa no, però se lo vedo per strada mi farebbe piacere offrirgli qualcosa. Come vi siete salutati? Ti ha detto una frase che ti è rimasta? Sì. Grazie. Saranno domande su Moratti. Se lo vedo per strada gli farebbe piacere, mi farebbe piacere offrirgli qualcosa, ha detto Balotelli, così insomma prendersi un caffè con il suo presidente. Non si sente un traditore come Ronaldo, come altri, giustamente, nel senso che il suo rapporto e il suo legame con il club era molto diverso ed è molto diverso rispetto a quello che anche lo stesso Moratti aveva creato con altri giocatori in passato. C'è un ascoltatore in linea all'800 24 00 24, poi ci sono un po' di sms al 349 238 6666, tra poco iniziamo a rispondere anche a questi, però sentiamo innanzitutto Sergio dalla provincia di Bologna, buon pomeriggio, benvenuto. Buongiorno, buonasera. Prego. Allora, io volevo sentire qualcosa da lei sul Bologna, visto che ha cambiato tutto praticamente. Eh sì. Cosa mi può dire? Che io sono un abbonato da 45 anni. Ah, fantastico. Quindi li ha visti tutti, ha visto anche Mancini debuttare in Serie A. Ho visto Mancini, sì, che ce l'hanno venduto, un momento buono. Eh sì. Beh. In Svizzera. Poi abbiamo visto Pecci, che hanno trovato la scusa che aveva l'ernia al disco per prendere i soldini. Eh beh, d'altronde. Poi è giocato ancora anni. E d'altronde comunque, le squadre come il Bologna e le società come il Bologna devono lavorare anche così, poi dopo magari trovano delle scuse, come dice lei, per vendere i giocatori bravi e per far digerire un po' l'operazione ai tifosi. Guardi, io sono di Ferrara, quindi per me Bologna, Cesena, soprattutto queste due città, perché nei miei periodi di infanzia e adolescenza con mio padre erano le città in cui io andavo a vedere la Serie A. Ho visto la prima partita che ho visto allo stadio, è stata un Bologna-Udinese con Mancini che giocava, quindi sono molto affezionato, ho visto grandi partite al Dall'Ara con Signori, con Roberto Baggio, quindi devo dire, seguo il Bologna con attenzione particolare anche per questo. Mi sembra, perché poi adesso sono distante e quindi su giudizi soprattutto personali come quello che sto per dare non mi espongo troppo, però mi sembra che il nuovo presidente sia all'altezza e abbia impostato il lavoro della società su basi diverse rispetto all'ultima gestione, che in generale ho avuto modo di dirlo anche in precedenza, quindi non solo adesso quando i Mennarini non ci sono più, non mi piaceva, non approvavo, perché era una politica che non aveva senso, sia per i legami con personaggi che ormai non dovrebbero centrare più con il mondo del calcio come lo c'erano oggi, ma anche per altri aspetti, la scelta dei giocatori ormai a fine carriera. Qui si punta un po' di più sui giovani. Ekdal della Juventus, che l'anno scorso era Siena, e Krin dell'Inter, sono due centrocampisti giovani molto bravi. Per il Bologna vanno benissimo, poi vedranno loro e capiranno se possono ambire a tornare nei club che in questo momento li hanno prestati in Emilia. Dal punto di vista generale mi sembra che la squadra sia un po' più completa rispetto all'anno scorso, qualcosa ancora si può fare e si deve fare, però in generale devo dire, e mi sembra di poterle dire, Sergio, abbia fiducia in quello che Bologna sta facendo. Spero che le parole del presidente, del nuovo presidente per il tecnico Colomba, le parole di fiducia estrema siano reali, siano sincere, spontanee, sentite e non di circostanza, perché quella è una base fondamentale. La legittimità e l'autorevolezza dell'allenatore non vanno mai messe in discussione. Tra poco torniamo a Manchester da Lorenzo Amuso, che ha seguito per noi la conferenza stampa di Turbo Mario Balotelli. Ci sono un paio di messaggi al 349-238-6666, uno in particolare da parte di Beppe di Vicenza, perché giustamente qui si parla di Sampdoria, ma in città la rivalità è a livelli supremi. E mi chiede Beppe di Vicenza: grandi acquisti del Genoa, siamo veramente convinti che sia il modo giusto? Poi bisogna mettere insieme questi giocatori, non è che c'è il rischio di fare un Manchester City bis con tutte le dovute proporzioni. Penso di no, perché Gasperini ha dimostrato in questi anni di essere un allenatore di altissimo profilo e di saper costruire le sue squadre molto rapidamente, anche dopo sessioni di mercato molto corpose, sia in entrata che in uscita. Alcuni acquisti sono, dal mio punto di vista, eccezionali per una squadra del livello del Genoa: quello di Ranocchia, quello di Miguel Veloso dallo Sporting di Lisbona, quello del portiere Eduardo, in parte quello di Toni, perché l'anno scorso, finché ha avuto fiducia a Roma, aveva fatto molto molto bene ed era stato anche sorprendente, non solo per me ma credo per molti, il suo rendimento dopo che al Bayern non aveva praticamente giocato nella prima parte della stagione. Lorenzo Amuso a Manchester, come è stato accolto il primo Balotelli pensiero? Bentornato Lorenzo, a te. Sì, buon pomeriggio. Allora, prima di tutto diciamo che è appena terminata la conferenza stampa, Balotelli sta facendo proprio ora con Mancini le fotografie di rito con la sua nuova maglia, indosserà il numero 45. Beh, l'accoglienza è stata, direi, un po' più problematica di quello che si poteva pensare, perché la stampa inglese soprattutto ha insistito moltissimo sulla reputazione di Mario, l'ha chiamato in più di un'occasione bad boy, gli ha chiesto ragione di questa reputazione, ha chiesto se se la meritasse. Balotelli è stato molto diplomatico, ha cercato di rispondere in maniera così conciliante, diciamo, ha parlato prevalentemente in italiano, in un unico momento ha risposto in inglese, quando appunto ha smentito la sua fama di bad boy, dice: I'm not a bad boy, non sono un cattivo ragazzo. Però appunto, nonostante le sue smentite, lui ha detto: insomma, sono giovane, migliorerò, crescerò, però insomma errori ne fanno tutti. Gli ha dato un assist in questo senso anche Mancini, che ha ribadito il concetto, insomma dice: a 20 anni i ragazzi commettono degli errori, adesso è il tempo di dimostrare una maggiore maturità, sono convinto che Mario non mi deluderà. Poi Balotelli si è soffermato sulle ragioni che l'hanno spinto a spostarsi in Premier League, ha spiegato che dopo Inter-Barcellona e quindi il famoso episodio della maglietta, lui ha capito che il suo tempo in Italia era scaduto, non tanto per i problemi eventuali che può avere vissuto all'interno dello spogliatoio, dice qua: al di là di due o tre compagni, con la maggioranza dei miei ex compagni mi sono sempre trovato molto bene, quanto per le pressioni esterne, le pagine sui giornali, le polemiche, l'attenzione mediatica, anche se poi in realtà ammesso che dal suo arrivo a Manchester è braccato dai paparazzi locali. Ha parlato ovviamente dell'importanza di Mancini sulla panchina del Manchester City come fattore decisivo per la sua scelta, ha ammesso di aver avuto offerte da altri club, da numerosi altri club italiani e stranieri, senza ovviamente rivelarne i nomi. Ha, come dire, in maniera molto efficace, ha dribblato un paio di domande su Mourinho, il quale avrebbe detto in una recente intervista appunto che Balotelli è un giocatore ingestibile. Lui ha detto: Mourinho non è più il mio allenatore, io di lui non voglio parlare. Ha ribadito il concetto anche in inglese quando gli è stata riproposta la stessa domanda. E poi niente, le prime impressioni della sua nuova avventura, dice: difficilmente mi abituerò alla pioggia, anche se in realtà questo è il primo giorno di pioggia dopo tre giorni di sole. Lui è arrivato nel corso del fine settimana e l'impressione è già uscito con il suo amico Macheda. Spero di trovarmi bene. È già uscito con il suo amico Macheda? Non si è ancora visto, pare che non abbia avuto ancora tempo per incontrarlo, ma sicuramente nei prossimi giorni avrà modo di incontrarlo, di mangiarci magari assieme una pizza, insomma. Ma è vero che l'anno scorso Ferguson aveva chiamato tutti i pub di Manchester e aveva detto: se vedete questo ragazzo, gli aveva lasciato la foto di Macheda, se lo vedete oltre la mezzanotte chiamatemi? Sì, è vero, come è vero che proprio settimana scorsa Ferguson in un'intervista parlando del suo pupillo, perché in realtà Ferguson nutre una grandissima considerazione di Makeda, ha detto che ha una personalità sfrontata e talvolta irriverente non solo fuori dal campo ma anche durante gli allenamenti. Gli capita spesso di doverlo difendere perché probabilmente dei comportamenti, degli atteggiamenti di Makeda, soprattutto nei confronti dei giocatori più anziani, di maggiore esperienza del Manchester United, non sono visti di buonissimo occhio, magari inducono a qualche reazione così non proprio carina nei confronti di Makeda. Allora ecco, deve intervenire Sir Alex con la sua saggezza per calmare gli animi. Mi ricorda quello che disse Mourinho quando Balotelli se l'ha presa con Cristiano Ronaldo dopo l'andata degli ottavi di finale 2 anni fa. Dice: mi piace Balotelli perché non ha rispetto di nessuno in campo. Lorenzo, ti chiedo ancora un istante, perché adesso abbiamo una pausa, ma vorrei trattenerti anche solo un minuto in più per chiederti qualcosa su Fabio Capello. Prima però mi dici in 30 secondi se questo Manchester City, che sabato ha sofferto tantissimo a White Hart Lane con il Tottenham, ha pareggiato 0-0, è considerato in Inghilterra una squadra veramente in grado di competere con United e Chelsea per il titolo già quest'anno? Allora, secondo i bookmakers, il City è la terza forza del campionato, dietro al Chelsea favorito e lo United è subito dietro. Credo che possa essere un giudizio largamente condiviso dalla stampa e anche dagli addetti ai lavori, perché al di là della campagna acquisti sfarzose, è altresì vero che Mancini con questa squadra ha lavorato pochissimo. Cioè, ci sono i nazionali inglesi e non solo che sono arrivati a fine luglio, ci sono stati acquisti dell'ultima ora, Balotelli, ma non solo, perché tra oggi e domani chiuderà anche per James Milner, centrocampista della nazionale inglese e dell'Aston Villa, e poi dopo il mercato del City sarà principalmente concentrato sulle uscite. Andrà via Bellamy in prestito al Cardiff, Ireland appunto nell'affare che porterà Milner al City. Però ecco, dicevo, finora Mancini ha lavorato pochissimo con la sua squadra, proprio una manciata di giorni. Dopodomani esordirà in Europa in una trasferta in Romania e dopo ancora giocherà domenica contro il Liverpool. Una via di stagione in salita, però appunto con una squadra completamente nuova, e se non completamente, in larga parte rinnovata, che richiede necessariamente dei tempi di amalgama per conoscersi. Lo stesso Mancini durante la conferenza stampa, a proposito dell'inserimento e dell'adattamento di Balotelli nel calcio inglese, ha chiesto almeno un mese di tempo prima di esprimere qualche giudizio, perché se è vero che Balotelli arriva in Premier League con il massimo dell'entusiasmo, è altresì vero che è un calcio completamente nuovo. Lui comunque è sicuro, dice: qui per un attaccante è più facile che non in Italia, perché in Italia c'è troppa tattica e i talenti vengono imbrigliati. Un'ultima domanda a Lorenzo Amuso, che ha seguito per noi la conferenza stampa di Mario Balotelli a Manchester, ma è presente in Inghilterra, ha vissuto tutto il campionato del mondo fallimentare della nazionale inglese. Le ultime dalla Football Association e dal suo direttore della comunicazione Adrian Bevington, che ha detto: il prossimo allenatore, il prossimo commissario tecnico sarà inglese, perché con Ericsson e Capello abbiamo avuto delle buone esperienze, ma pensiamo che il prossimo CT debba essere inglese. Intanto, prossimo quando? C'è dal 2012 in poi o prima, Lorenzo? E i nomi poi alla fine sono ristretti a pochi: Oxon, Redknapp, ne vengono altri in mente? No, direi di no. Prima di tutto c'è da dire che a posizione di Capello, se lui dopo il mondiale aveva chiesto le massime garanzie da parte della federazione di un appoggio incondizionato almeno pari a quello che Sinley aveva ricevuto, ecco, c'è da dire che le prime mosse della Football Association sono state in senso decisamente opposto. Queste dichiarazioni di Bevington sono state intempestive, forse addirittura inopportune, soprattutto perché tra 2 settimane, non dimentichiamoci che l'Inghilterra inizia la sua corsa alle qualificazioni europee giocando in casa contro la Bulgaria, quindi è sembrato quasi un gesto di sfiducia dalla parte della Federcalcio, una Federcalcio che ha vissuto la conferma di Capello così, in maniera così divisa, nel senso che c'erano certamente alcuni federali, la maggioranza, che voleva, spingeva per la conferma di Capello, però c'erano anche molte voci critici. Nello sfondo c'era ovviamente l'ingaggio di Capello, che ha un contratto fino al 2012 da oltre 6 milioni di euro e che quindi sarebbe stato troppo oneroso da risolvere anticipatamente. Certo è che da due mesi a questa parte non c'è pace per Fabio Capello sulla panchina dell'Inghilterra. Tutto è iniziato, i primi problemi sono iniziati con l'annuncio del Capello Index, quella sorta di fantacalcio che portava il nome del tecnico italiano, un Capello Index che poi è stato soppresso per volere della federazione inglese. Poi c'è stata la spedizione fallimentare in Sudafrica, ovviamente, che ha complicato enormemente tutta la questione. Poi ci sono stati degli episodi, come dire, chiamiamoli incidenti diplomatici provocati dallo stesso Capello, sì. Quando ha annunciato la fine della carriera internazionale di Beckham, prima ancora di avvisare l'interessato, ecco, considerato il valore, l'importanza anche mediatica di Beckham, forse Capello avrebbe dovuto e potuto gestire con un po' più di cautela, sì, rispettare anche Beckham, questo annuncio. Esattamente, poi ovviamente, come accade sempre quando una nazionale è in difficoltà, non arriva nei risultati, escono le notizie non troppo controllate dallo spogliatoio, l'ultima delle quali durante il fine settimana, secondo la quale Capello, nonostante si sia ripromesso di avere rapporti, come dire, più stretti con i giocatori, parlarci di più, in realtà pare che durante il ritiro prima della partita con l'Ungheria, amichevole di settimana scorsa, ecco, non abbia rivolto una sola parola a nessuno dei 23 convocati per Benissimo. La partita stessa. Benissimo, un quadro non particolarmente rassicurante per l'ex Mr. Fabulous. Grazie per ora, Lorenzo Amuso, a prestissimo dall'Inghilterra. Buon pomeriggio. Grazie a Lorenzo Amuso, che ha seguito per noi la conferenza stampa di Mario Balotelli da Manchester e poi ci ha aggiornato anche sulle ultime nel rapporto sempre più complesso tra Fabio Capello e il calcio inglese e l'Inghilterra in generale, Svizzera e Bulgaria, anzi Bulgaria e Svizzera in questo ordine, i primi due impegni nelle qualificazioni a Euro 2012, due impegni non totalmente semplici, anche se la Bulgaria sarà senza Berbatov, che ha abbandonato la sua nazionale, ha detto il Manchester ne trarrà beneficio, lo si è visto già ieri sera con la sua rete, la sua ottima prestazione nel Monday Night, vinto per 3-0 sul Newcastle con gli Evergreen, Paul Scholes e Ryan Giggs, ancora una volta formidabili trascinatori. All'800240024 c'è Lucio da Vigevano, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Allora, le ho mandato un messaggio, no? Ah. Da interista mi auguro che sia già, mi sbaglio, ho già pentito di essere in Inghilterra, il nostro grande Mario. No, perché era bello, sorridente, tranquillo, sereno, no? Si vedrà un altro come Ibrahimovic. Addirittura? Sì, già pentito anche lui. Ma voi siete contenti adesso, voi interisti, che dopo un anno siete riusciti a sbolognare nuovamente Mino Raiola? Chissà se adesso, non so, diventa procuratore di Eto'o quest'anno, cosa dice? Sì. È un bel problema quello da gestire, più lui da gestire dei suoi giocatori. Vedrà che il ragazzo lì è già pentito e lo dichiarerà. Ma lei l'avrebbe trattenuto all'Inter? Sì, avrei fatto di tutto, dai. Mm. I piedi buoni si tengono, come si portano i piedi buoni ai mondiali, si tengono, dai. Di tutto si fa. Va bene, Lucio, le manca Mourinho? Le manca Mourinho? Mancherà, mi sa che mancherà più come personaggio per voi giornalisti. Ah. Come allenatore così, bravo. Ma diciamo un 55. Va bene. Grazie, sì, a presto. In bocca al lupo per la sua stagione. Presto. Queste erano le considerazioni di un tifoso dell'Inter un po' così pentito del fatto che Balotelli se ne sia andato. Tra poco c'è lo spazio sui motori, naturalmente interessante perché sono i giorni del passaggio ufficializzato di Valentino Rossi dalla Yamaha alla Ducati dalla prossima stagione. Ci sono un paio di sms ancora ai quali era giusto rispondere. C'è anche da dire che Balotelli ha espresso fra i vari concetti uno molto molto interessante e non così comune negli ultimi tempi, né per giocatori della sua generazione né per altri. Ha detto che non c'è nulla di più bello della nazionale, è stata una grandissima emozione vestire la maglia della nazionale nell'amichevole di Londra con la Costa d'Avorio, e mi sembra appunto un concetto, una dichiarazione da sottolineare in maniera particolarmente positiva ed entusiastica. C'è Roberto Dalodi che dice: dite qualcosa anche del mio Torino, noi poveri tifosi granata possiamo sognare quest'anno. La squadra ha delle discrete basi, però vedo che Lerda chiede rinforzi e chiede di avere una rosa un po' più completa. Probabilmente ha ragione, perché il campionato sarà competitivo. Una cosa deve fare il Torino probabilmente, ed è evitare l'errore commesso tutti questi anni recenti e non solo, cioè costruire una squadra che vada bene per provare a salire in Serie A o per riuscire a salire in Serie A, e poi dover ricostruire una squadra che sia in grado di lottare per rimanere nel massimo campionato. Meglio cercare di programmare qualcosina e avere qualche giocatore che sia futuribile anche in Serie A, senza dover poi fare ogni estate un mercato devastante anche per i tifosi, alla ricerca sempre di acquisti dell'ultimo minuto, con una disponibilità economica comunque non così ampia. L'ultimo messaggio al quale risponde è quello di Giacomo, che chiede una valutazione sull'acquisto di Hernanes da parte della Lazio. Allora, Hernanes 2 anni fa era un giocatore molto ambito, in particolare dal Barcellona, poi però è rimasto a San Paolo. In questi casi non è mai facile capire quanto un giocatore non migliora perché non ha fatto il salto di qualità, non è passato dal suo club a uno di più alto livello e dunque ha perso un po' di motivazioni, o se invece non migliora perché quello è il suo massimo rendimento possibile. Certo, è un giocatore che non è stato più considerato da nessuno, e neanche da Dunga, che lo ha visto all'opera in tutti questi anni e aveva bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche, cioè un costruttore di gioco. Non è mai stato considerato davvero un top player, cioè un giocatore di altissimo livello. Arriva la Lazio, che ha speso tra gli 11 e 12 milioni, è una cifra notevole, è un giocatore tecnico, bravo negli inserimenti, ma molto lento. Per il calcio italiano ed europeo questo può essere un limite. Ricorda un po' Raí, chi se lo ricorda può già capire quali sono un po' i parametri. Grande numero 10 del San Paolo negli anni 90, però anche lui con il Brasile fece molta fatica perché era un numero 10 più fantasista. Hernanes è un giocatore che gioca in posizione un po' più arretrata. Bisogna capire anche che fine fanno Ledesma e Matusalem e gli altri, perché tutti insieme non possono giocare. Ora chiudiamo con i motori. Sport e motori. È stato ieri il giorno dell'ufficializzazione di Valentino Rossi e del suo passaggio dalla Yamaha alla Ducati, con un videomessaggio anche di Valentino ai suoi tifosi e anche alla scuderia attuale, che poi lascerà, alla casa attuale che lascerà al termine di questa stagione. Ecco Valentino Rossi. Ragazzi, ciao a tutti, e finalmente si è scoperto cosa farò nei prossimi anni, e sicuramente nei prossimi 2, e poi magari vedremo per il futuro. Comunque dal 2011 divento un pilota della Ducati, ho firmato 2 anni di contratto. Niente, è stata sicuramente una scelta difficile, perché questi anni con la Yamaha sono stati fantastici, e sono stati 7 anni indimenticabili. Ho vinto tanto, ho fatto delle grandi gare, delle grandi imprese, ma soprattutto mi sono divertito molto, ecco. Quindi devo ringraziare tutti in Yamaha per questo periodo stupendo. Però era ora di cambiare aria, era ora di fare qualcosa di diverso, perché alla mia età comunque le motivazioni sono molto importanti. L'avventura Ducati mi è sembrata da subito la più bella, la più divertente, ecco. Quindi sarà interessante ricominciare da capo e cercare di con la Ducati di fare tutto il buono che ho fatto con la Yamaha. Ciao a tutti. E la Ducati è un po' più pronta di quanto lo era la Yamaha quando Valentino arrivò dalla Honda nel 2003. Io assieme al mio team abbiamo preso la M1, che era una moto un po' sfigata, diciamo, e l'abbiamo portata al top, l'abbiamo portata a essere probabilmente la MotoGP più veloce o comunque più ambita di tutte. Questo era Valentino Rossi, chiudiamo così, appuntamento a domani con A Tempo di Sport alle 14 su Radio 24, grazie a Marco Lombardo in redazione, a Fabio Cantadori in regia, buon pomeriggio su Radio 24 da Massimo Callegari. A Tempo di Sport.